Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Via Zanardi. Come vi avevo preannunciato, tra musica e danza riprendiamo la nostra prima colazione di oggi, lunedì 8 luglio. Siamo a un last minute di metà mandato, si può dire. Abbiamo qui con noi in diretta telefonica Roberta Zerbini di Ecodanza, la quale do il buongiorno. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie mille. Intanto grazie per la levataccia, si può dire, dai, un orario per artiste e artisti abbastanza complicato, ma conosco bene il vostro. Si fa, conosco bene l'entusiasmo, insomma. Detto questo, ho detto bene a metà mandato per l'edizione di Ecodanza? Sì, diciamo che la campeggia, stiamo parlando del festival, sì, che organizziamo ormai per il secondo anno al Parco del Paleotto, è a metà del suo mandato, cioè gli rimangono ancora due appuntamenti nel mese di luglio e poi ce ne sarà uno a settembre. Parliamo dei prossimi appuntamenti, poi parleremo anche del luogo, che è molto molto particolare. Intanto partiamo col prossimo appuntamento. Allora, le nostre campeggio si svolgono in quattro giornate, cioè dal giovedì alla domenica, in modo che appunto il Parco del Paleotto possa trasformarsi in un campeggio culturale per la città. I prossimi appuntamenti sono dall'11 al 14 luglio e poi dal 25 al 28 di luglio. In questi quattro giorni succedono svariate cose, tra cui quella a cui teniamo di più è che c'è sempre un collettivo o comunque un gruppo di artisti che sta in residenza e che, incontrando ogni giorno poete, musiciste, cantanti, attori, attrici, diciamo, crea così una restituzione finale di questi quattro giorni e quindi riuscirà, si spera, in un mood unico a tracciare le fila di quello che succede in questi campeggi culturali della città. E poi il collettivo... Certo, dimmi scusa, ti avevo interrotto. No, il collettivo che c'è questo alla prossima campeggia, che parte questo giovedì, quindi diciamo proprio assolutamente alle porte, è composto da Zoe Francia la mattina, Agnese Gabrielli e Lucrezia Rossellini, che giovedì 11 luglio alle 21 ci presentano un loro piccolo pezzo, giusto per farsi conoscere e dire ecco, noi siamo queste, che si chiama Dichiaro che sei qui viva, benché a pezzi. Sono delle artiste che lavorano col corpo, col movimento, ma moltissimo anche con la parola e con il tessuto e la creazione di fanzine, di scritti. E quindi insomma, vi invito a venire a vederle assolutamente. E poi si prosegue con la musica, perché avremo il venerdì, abbiamo la prima serata di un progetto curato da Fabrizio Puglisi, quindi parliamo di musica sperimentale, musica di ricerca. Sabato abbiamo un reading con la poeta Virginia Farina e le musiche di Simone Martinetto e durante tutta la campeggia un fantastico laboratorio, anche quello di intreccio, tessuto, filatura e parole, di Giuseppe Mongello, ed è gratuito. Tutti i pomeriggi ci saranno un paio d'ore di lavoro creativo tra mani e pensiero. E quindi alla porta della nostra città, nel Parco del Paleotto, sul quale faremo un breve approfondimento, la possibilità di restare anche fisicamente in un festival trasversale che comprende musica ed altro, e oltre una bellezza che va a rivalutare anche un parco, un luogo che lo vogliamo sottolineare un attimo, perché per me ha un grande fascino. Puoi descriverlo ancora meglio, Roberta? Allora, diciamo che il parco è ancora un po' in sofferenza, quindi è, io credo, uno, io lo chiamo sempre il parco, il luogo dell'anima, perché è un parco enorme, sono 23 ettari alle porte di Bologna, molto poco conosciuto e quindi frequentato, diciamo, in modo, secondo me, ecologico dalle persone che lo frequentano, quindi silenziosamente, senza troppi invasioni dell'umano in questo meraviglioso mondo ancora naturale. E è un po' stato violentato purtroppo dall'alluvione dell'anno scorso che ha fatto cadere via del Paleotto, dai lavori dell'umano, cioè di questo nodo di Rossignano, quindi questo ponte e questo viadotto che ci passerà sulle teste. Però al di là di questo, appena si entra dentro il parco si riesce comunque ancora a dimenticare e ad allontanare sia dallo sguardo che dall'udito, e quindi si riesce a stare in un luogo che veramente credo sia uno dei pochi che ci sono in città, cioè il fiume, ci sono piccoli sentieri che uno non si immagina e che ci portano in un altrove emotivamente, secondo noi, molto interessante. Sì, l'ho definito in questo modo, affascinante, proprio per l'insieme di sensazioni che può dare in maniera assolutamente eterogenea, particolare, a maggior ragione poco conosciuto, ed è un buon motivo in questo caso, con il last minute del Breakfast Club, di portare l'attenzione nei diversi motivi di aggregazione anche di qualità artistica e di originalità. Facciamo un piccolo stacco musicale, poi torniamo in diretta per parlare anche del fine luglio, se vogliamo, certo, insieme al Paleotto e Codanza e questo parco che a me ha sempre, nonostante la sofferenza, portato sensazioni importanti, incisive per così dire. A tra poco. Campeggia Festival Sperimentale, ne diamo anche qualche anticipazione insieme a Roberta Zerbini di Ecodanza per quanto riguarda la seconda metà del mese di luglio, estate 2024, a Bologna al Parco del Paleotto. Ci sei Roberta? Sì. Molto ci sono, bene. Ci sono. Allora, abbiamo dato le indicazioni per quanto riguarda la parte più imminente. Sinteticamente, diamo uno sguardo in avanti anche, a te la parola. Certo, allora l'ultima campeggia che troviamo nel mese di luglio è quella che va dal 25 di luglio al 28. Come dicevo prima, hanno proprio sempre questa temporalità, dal giovedì alla domenica. Sì. Il giovedì si arriva, si può piantare la tenda e rimanere con noi fino alla domenica verso le 10, il momento in cui insomma un po' si smobilita tutto l'allestimento del festival. Abbiamo sempre durante le campeggi degli artisti in residenza. Questa campeggia avremo come ospiti Roberta Di Serio ed Eleonora Serpente, sempre due artiste milanesi, anche se di espressione pugliese, una delle due, che lavorano col corpo, con il video e con la multimedialità. E il venerdì abbiamo Il Ritorno, perché fa due pièce musicali, Fabrizio Puglisi, quindi ci sarà l'andata questo venerdì, il 12 luglio, e il ritorno del suo progetto Art is Short, Life is Long, venerdì 26 luglio alle 21. Qui ci sarà Edoardo Maraffa e Fabrizio Puglisi. Dopodiché il sabato sera, dedicato alla parola, col nostro progetto Accendiamo i Fuochi e Dose. Dose è un progetto di lettura a voce alta che facciamo intorno a un braciere, e Accendiamo i Fuochi è il progetto, oltre che la rivolta degli artisti in questo momento storico in Italia, Accendiamo i Fuochi è il momento di incontro con qualche poeta che c'è nel nostro territorio, e qui incontriamo più che una poeta una scrittrice, Carol Aulato, che ci legge May Azim. Non voglio dire più di tanto, perché vi dico venite a conoscere queste due donne, perché penso che proprio ne valga la pena, e dopo Carol comunque si mette a fare un DJ set per noi, quindi insomma sarà una serata che concluderà, certo, il periodo estivo, almeno per noi molto intenso, in maniera molto gioiosa. E quindi, come ho detto, sì, un bel festival, una bella rassegna trasversale in un posto molto particolare, come vi ho detto in precedenza. Diamo qualche indicazione per raggiungerlo anche? Certo, anche perché è la cosa più difficile raggiungerci. È veramente la cosa più difficile. Ma come dico sempre, una volta che uno ci ha raggiunto, poi è difficile che abbandoni quel luogo. Ma del resto, allora, le cose più complicate da raggiungere sono quelle che ti rimangono, dai. Vero? Infatti. Questa idea di fatiche, di salita, noi occidentali non ci abbandonerà mai. Vabbè, e al di là di questo, diciamo che si raggiunge a piedi. Questo in questo momento deve essere, come dire, la frase più importante, o in bicicletta o in motorino. Ovviamente chi ha una mobilità differente può contattare l'organizzazione, perché può arrivare con l'auto fino a davanti al centro culturale, quindi c'è una problematica ma anche risolvibile. Si arriva a piedi col 13, perché è in fondo a via Toscana. Quindi tutti gli autobus, diciamo, che vanno sulla via Toscana nella direzione Rastegnano vanno benissimo. Se no, c'è anche un fantastico sentiero CAI che dalla chiusa del fiume Savena su via Toscana ci porta direttamente, si addentra subito dentro il parco, segue il lungo fiume e arriva direttamente al centro culturale. Okay. Decidete voi se prendere il bus, la bicicletta sì, infatti, o camminare. E per avere anche da piattaforme social, per consultare più comodamente gli appuntamenti, su quale orientamento bisogna prendere con quella brutta parola, allora, che è online? Noi cerchiamo di essere moderatamente presenti sui social per non finirci. Ma ci siamo, quindi voglio dire, su Instagram, su Facebook ci trovate. La campeggia FS, quest'anno l'acronimo è Fare Spazio. Ah, ok. Io avevo letto quindi, Festival Sperimentale, invece è Fare Spazio. Ok. Diciamo che sì, Festival Sperimentale vale sempre, perché sì, non va può sempre che essere bene, con, certo. Così se ci siamo noi, però ogni anno cerchiamo di dare un taglio. Quest'anno è Fare Spazio. Perché crediamo che un po' tutti noi abbiamo bisogno di questo in questo momento, di togliere il superfluo, e quindi anche il campeggiare, lo stare in tenda con noi è un abitare più leggero, meno che fa spazio. E quindi ci trovate sui social, abbiamo 2000 siti anche, quindi c'è il sito di Ecodanza, che è la compagnia in residenza in questo luogo e che dirige e che fa da sentinella al Parco del Paleotto, e c'è il sito del Paleotto, che è un centro culturale attivo tutto l'anno, che si chiama Paleotto 11, e poi c'è il sito della Campeggia F7. Quindi io credo che se uno ci vuole trovare ci trova. Non ho dubbi. Io ti ringrazio tanto per questa conversazione e anticipazione legata al Paleotto. Ti auguro una buona giornata e magari ci sentiremo per altri motivi di incontro. Grazie Roberta, buona giornata. Grazie a te. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao. Un attimo di musica per organizzare la pubblicità, poi i magazine di oggi. Allora, cosa abbiamo detto che non ricordo? Compositore, fine dell'Ottocento, ricercatore musicale, uno dei primi ricercatori musicali in un determinato ambito. Ecco un altro indizio che mi è venuto in mente adesso, così ripensando al protagonista. Per voi un lavoro iperborea di cui parleremo in apertura dei magazine del lunedì 8 luglio 2024. 333 180 9494. A tra poco.